9 in punto, la versione di Oscar. Oh, per decisione di una stragrande quantità di migliaia di vostri colleghi ascoltatori, cari amici che stanno ascolto, che The Doors resta qua, perché molti dicono accidenti, ma com'è che porta male? Non lo so, a me non pare proprio, per il momento pare che ci abbia portato bene, la consapevolezza ci ha fatto un po' cambiare marcia sullo spread, poi è stato Mario Draghi a salvarci con le sue aste di liquidità, diciamoci la verità, e in questi giorni le cronache europee sono piene in realtà di emergere di nuove questioni, dalla Spagna che deve tagliare altri 3,5 punti di deficit quest'anno, dall'Olanda che scopre di non essere in così buona salute sul deficit, la Francia di cui seguiamo di giorno in giorno l'avvicinarsi dell'elezione del 22 aprile, su cui la vicenda in corso naturalmente del terrorista assediato ha un fortissimo impatto, quindi bisogna vedere nei prossimi due giorni cosa succede sui sondaggi. Tutti si aspettano che Sarkozy a questo punto possa superare Hollande, vedremo se sarà davvero così. Io oggi comincio semplicemente con non più di tre flash dedicati a vicende europee. Il primo sono le polemiche che in Germania si leggono su tutta la stampa stamane, a cominciare da Frankfurter Allgemeine Zeitung, nei confronti dell'impostazione data dal autorevole ministro Schäuble al bilancio per il 2013. Nei giorni scorsi si erano uscite polemiche, le aveva alimentate tra gli altri Der Spiegel, sul fatto che la stragrande parte dei tagli convenuti per quest'anno non erano ancora definiti, per quest'anno significa nel budget 2013 che si presenta adesso in Germania, non erano ancora convenuti, e che in realtà c'era anche qualche miliardo di taglio annunciato per l'anno scorso che non era stato portato a segno. E secondo le prime cifre che escono fuori del budget di Schäuble, il deficit tedesco quest'anno salirà a 34,7 miliardi per via di 8,7 miliardi in più di pagamenti addizionali per l'ESM, cioè per il meccanismo di salvezza comune europeo. Ma per il resto Schäuble tiene fermi tutti gli obiettivi e quindi pareggio assoluto per il 2016. Nella coalizione i liberali protestano perché vorrebbero l'anticipazione al 2014 dell'obiettivo centrato del pareggio di bilancio, quindi come vedete insomma, c'è chi si può permettere dibattiti di questo tipo, mentre noi scopriremo amabilmente tra poco che aver messo l'obiettivo del pareggio del deficit al 2013 ci costerà una sbella di tasse aggiuntive. La Bild, quindi il giornale popolare che spiega ciò che arriva sotto gli occhi di 10-12 milioni di tedeschi ogni mattina, ecco, sul Bild tedesco c'è un'intervista di Mario Draghi, che quindi sceglie una politica di comunicazione che parla al vasto corpo dei tedeschi, si potrebbe dire quasi alla pancia, insomma, al giornalismo popolare, e si complimenta con i tedeschi per la loro attitudine contro l'inflazione, per la loro cultura della stabilità, ed è quello che più conta è che il giornale fa proprio questo spirito del presidente della BCE, tant'è vero che illustra l'intervista con una grande vignetta in cui Mario Draghi è dipinto benevolmente con un sorriso stampato sul volto, ma, cosa molto importante per il lettore tedesco, con un bel elmone prussiano chiodato sulla testa, e quindi e questa è l'intervista da cui state sentendo ai giornali radio l'espressione di Draghi che dice il peggio è passato, però insomma state attenti, ecco, quindi interessante politica di comunicazione del presidente della BCE. Nella trasmissione di oggi, mentre l'Italia si infiamma sulla questione dell'articolo 18 e del lavoro, su cui torneremo, inciso, il mio giudizio è molto meno diciamo così laudatorio di quanto sembri, io sono deluso dal fatto che non si diminuiscono i contributi come linea generale di questo governo, ma la contribuzione generalmente aumenta ed è quello il primo nemico per l'occupazione, cioè per la creazione di lavoro, di posti di lavoro aggiuntivi. E da questo punto di vista sono inoltre preoccupato perché il giro di vite all'ingresso dei contratti del lavoro, il giro di vite è molto potente e nel breve, con l'economia che si contrae, credo che produrrà anch'esso una contrazione di domanda di lavoro da parte delle imprese. Vediamo se mi sbaglio. Io avrei molto più coerentemente incardinato la diminuzione della flessibilità all'ingresso con l'aumento della flessibilità alla uscita dal posto di lavoro. Le due questioni sono state tenute separate perché c'è stato un giro di vita all'ingresso molto forte ed ecco perché è anche più facile, io lo capisco, per coloro come la CGIL e per la sinistra, per i quali l'articolo 18, la vecchia configurazione, era una bandiera ideologica, puntare i piedi e dire che bisogna cambiare tutto a cominciare dal PD. La CGIL io me l'aspettavo, ma a cominciare dal PD. Vedremo, io complessivamente sono convinto che in questa linea di aumento generale dell'imposizione l'errore fondamentale è non decidere di cominciare con la prima vera riforma del lavoro, che è quella di levare meno soldi abbassando il cuneo fiscale, che è il più rapinoso di tutti i paesi avanzati. Quindi significa che ciò che manca è un taglio di spesa pubblica nell'ambito di quei 5, 6, 7 punti di PIL pluriennale, che è stato, come abbiamo scoperto, ciò che ha accomunato il cambio di marcia di tutti i paesi avanzati. Ma oggi, mentre l'Italia si infiamma su questo, noi ci occupiamo di una vicenda che vi potrà apparire tecnica, ma non lo è stata affatto, e non lo è affatto perché ha visto il capo azienda di una delle più grandi aziende italiane, il capo di Telecom Italia, Franco Bernabè, in questi giorni animare una polemica durissima contro il Parlamento. Durissima significa che in un'audizione parlamentare ha accusato il Parlamento, le forze politiche che in Parlamento sostengono una norma, di puntare all'esproprio dei Telecom Italia. E voi capite bene che per noi, Radio 24, ma per Giannino, quando si sente parlare di esproprio di un'azienda come quella, beh, inevitabilmente si tirano su tutte le antenne. E allora, siccome le telecomunicazioni sono di tutti i settori regolati, quello in cui più si è visto in questi anni l'effetto della concorrenza, perché è il settore nel quale le tariffe finali alla clientela, soprattutto, anzi praticamente nel settore della telefonia fissa, nella telefonia mobile soprattutto, sono scese moltissimo, ci siamo chiesti: ma non vale la pena forse chiedere e spiegare ai nostri ascoltatori se davvero siamo in presenza di una cosa così grave come l'esproprio di Telecom Italia? La vicenda in sintesi è questa: c'è una nel blocco dei provvedimenti sulle liberalizzazioni così, di cui abbiamo molto parlato, i partiti, e questa volta per convergenza, quindi non c'è un gioco delle parti politiche, di fronte a una nota questione, la questione è quella del blocco da anni su come far convergenza tra i diversi pezzi di rete, il monopolio del rame che è la rete di Telecom Italia, c'è chi ha fibra invece che naturalmente ha una capacità di trasporto e di dati e di banda molto più elevato, c'è chi ha pezzi di rame sulla vecchia rete autostradale e soprattutto poi utilizza ovviamente i punti radio della telefonia mobile. Ma il problema è che in questi anni l'avanzamento della capacità italiana di portare banda larga e ultralarga vera, non quella dichiarata nei contratti che poi si abbatte a pochi kilobyte, sta registrando un grande stop, perché c'è un contrasto tra i players di mercato e soprattutto il problema è come fare convergere i diversi pezzi di architettura della rete, la fibra, il rame, le tecnologie radiomobili, senza espropriare nessuno, questo primo fondamento, ma contribuendo al fatto che tutti abbiano incentivi alla realizzazione di una convergenza dalla quale poi portarvi più rapidamente la banda larga e ultralarga, che serve a far decolare produttività a decine e decine e decine di distretti italiani, di piccole imprese che con questa connettività non ci possono fare un piffero di niente con internet. Questo è il punto delicato, quindi non è un punto solo ipertecnico, è un punto da cui l'intero paese non può che guadagnare. Di fronte allo stallo di questa situazione, perché ovviamente è comprensibile, Telecom tende ad avvalorare la sua fibra in rete e tende a dire voi non ci dovete mettere le mani e così via, è passata una norma per la quale, poiché siamo l'unico paese in cui il canone di unbundling, cioè lo spacchettamento dell'ultimo miglio, come si suol dire, non è affatto sceso ma è salito, allora il Parlamento ha detto mettiamo una bella norma per il quale, per diminuire questo canone consentiamo alle centraline dell'ultimo miglio che anche i concorrenti rispetto a Telecom Italia si possano intanto fare la manutenzione delle proprie linee, delle proprie cose aggiuntive per poter partecipare al fatto che deve essere universale poi il fatto di collegarsi nell'ultimo miglio quando voi scegliete il gestore che preferite. Ecco che almeno questa manutenzione possano farlo i concorrenti, non la fa più Telecom Italia, e quindi possiamo a quel punto abbassare la pretesa e la tariffa che resta troppo alta di unbundling dei Telecom Italia. Ecco, questo è il punto, spiegato così spero che sia stato chiaro a tutti, ed è un punto che ha portato il Franco Bernabé a dire in Parlamento: voi mi volete espropriare, è durissimo, l'Europa è contraria, la Commissione Europea è contraria, state espropriando l'Agicom è intervenuta dicendo in effetti ci state espropriando. Tanto durissimo è stato lo scontro che alla fine lo stesso Telecom Italia ha dovuto dire: no, beh, sia ben chiaro, noi non vogliamo dire che il Parlamento non è sovrano. Al punto che uno che non si occupa quasi mai di questioni così tecniche come Cicchitto, mi ha molto colpito, ha fatto la dichiarazione dicendo: quello di Bernabé è delirio di onnipotenza. Allora, abbiamo chiamato un pochino di parti politiche per farvi spiegare se sono tutti improvvisamente impazziti o a che cosa presiede questa norma, se verrà cambiata rispetto a una cosa così dura, una presa di posizione dalla Commissione Europea alla GCOM, e insomma se questa è la prova oppure no, che quando si tratta di liberalizzare toccando interessi pesantissimi succede l'ira di Dio, anche se magari oculatamente i giornali non ve ne fanno quasi accorgere, ma chi se ne deve accorgere, comunque se ne accorge come. Allora, i nostri ospiti su questa questione sono Benedetto Della Vedova, che è capogruppo del Futuro e Libertà alla Camera, buongiorno e grazie onorevole. Buongiorno. Giovanni Fava, che è deputato della Lega Nord, buongiorno. Buongiorno, è firmatario dell'emendamento. Esatto, sì, esattamente. E Nicola Rossi, che è senatore del gruppo misto, presidente dell'Istituto Bruno Leoni, buongiorno Nicola. Buongiorno. Allora Fava, siccome so che lei ci deve rapidissimamente lasciare ed è oltretutto firmatario, ci spiega, era impazzito, vuole espropriare Telecom o no? Questo è il punto. No, io non sono impazzito, così come non è impazzito il Parlamento. Io ho presentato un emendamento che mirava sostanzialmente a togliere a Telecom il monopolio sulle manutenzioni, che detto così sembra banale, ma che non è assolutamente banale per quanto riguarda poi la componente dei costi che vanno a gravare sui costi fissi delle bollette che tutti noi paghiamo normalmente sulla rete fissa, e soprattutto per quanto riguarda il fatto che con questa modalità, cioè quella per la quale si assomma al valore degli ammortamenti delle reti anche il costo delle manutenzioni, tra l'altro con una modalità strana, con una specie di forfettizzazione dei costi, Telecom di fatto gestisce un monopolio, ed basta guardare i dati, oltre il 90% del traffico sulla comunicazione fissa è ancora monopolio di Telecom in termini di contrattualistica, e poi oltre il 70% in termini di gestione. Quindi noi diciamo semplicemente che è una cosa di buon senso, talmente di buon senso che il Parlamento l'ha approvata all'unanimità, cioè il mio emendamento è stato accolto all'unanimità dei parlamentari col parere favorevole tanto dei relatori quanto del governo. Quindi adesso so che ci sono tentativi per cercare di smontare la norma al Senato, mi dicono addirittura che ieri sera il relatore del Senato, Pastore, sul testo delle liberalizzazioni pare abbia presentato, sia in corso di presentazione, un emendamento che di fatto inertizza il mio, però io credo che questo sia una questione della battaglia di libertà. Questa è la più grande liberalizzazione di tutte le liberalizzazioni di cui si è parlato, perché stimano i tecnici che valga oltre 1 miliardo di euro all'anno, per capirci, che paradossalmente, come succede in Italia, viene inserita per merito dell'opposizione, perché io sono un parlamentare della Lega che sta all'opposizione, in un provvedimento che parla di semplificazioni. Questo è il paradosso dei paradossi. Quella liberalizzazione in pratica ha liberalizzato poco o nulla, quello delle semplificazioni al proprio interno invece porta, grazie a un'iniziativa parlamentare di un partito di opposizione, una norma che di fatto liberalizza il mercato delle telecomunicazioni in modo sostanziale. Allora, sono insorti anche i sindacati di categoria, solidali con l'azienda Telecom, dicendo che così si tagliano posti di lavoro. Grazie a Fava. Della Vedova, la sua impressione qual è? Perché i toni di Bernabé sono stati veramente durissimi. Insomma, si è fatto un po' prendere dall'entusiasmo, però i toni di Bernabé erano secondo me non accettabili per due ragioni. Primo, perché Bernabé ha cominciato col dire che era incostituzionale, e la incostituzionalità della norma sarebbe che questa pezzo che tecnicamente è una riforma pro concorrenza, quindi pro liberalizzazioni, sia stata inserita in un decreto che si intitolava semplificazioni. Ora, diciamo che chi come me sta quindi in Parlamento si è sostituito al Presidente della Repubblica Bernabé dicendo materia non attinente a quella del decreto. Ecco, però diciamo che abbiamo visto e continuiamo a vedere cose diciamo ben più strane che non questa, quindi era improprio. E poi soprattutto è chiaro che questo non spetta al Presidente di una grande azienda. Poi Bernabé ha detto ma voi non dovete, il Parlamento non deve occuparsi di cose tecniche, anche questo mi sembra decisamente l'accusa vera è di prevaricare l'autorità, i poteri della GCOM, un fuor d'opera. Su questo qui c'è nell'emendamento, c'erano più emendamenti, anche noi avevamo presentato un emendamento che andava in quella direzione, poi alla fine si è scelto il testo Fava, c'erano più emendamenti che andavano in quella direzione, per fissare un principio, e il principio è che il canone di manutenzione sulle linee, l'ultimo pezzo di linea che Telecom affitta, è obbligata ad affittare ai concorrenti per entrare nelle case di ciascuno di noi con la telefonia fissa e con la banda larga, quel canone di manutenzione innanzitutto non potesse più essere come oggi fatturato in modo a forfè, vuoto per pieno, che ci siano manutenzioni o no tu paghi un pezzo a Telecom sotto la voce manutenzione, e questo è un dato che rende poco trasparente le tariffe di unbundling per i tecnici, quindi poco trasparente, e che dicono i concorrenti crea margini utili per Telecom che ovviamente derivano semplicemente dal fatto che il monte complessivo di risorse che vengono date sotto la voce manutenzione a Telecom è molto più alto delle spese che poi effettivamente Telecom deve fare per fare la manutenzione di quelle specifiche linee che affitta. Cioè, questo è un vantaggio. Si parla di un costo medio di 0,50 euro per linea mese effettivamente sostenuto rispetto agli oltre 2 euro che gli sono riconosciuti in tariffa da questo AGCO. Crea una disparità nella concorrenza, perché Telecom fa soldi anche sulle tratte che affittano gli altri. Mentre Fastweb, Wind, Vodafone, tutti gli altri operatori pagano per usare, quindi affittano, oltre al canone d'affitto gli danno un surplus di 1,50 euro al mese. È chiaro che questo non è sostenibile ed è una delle ragioni per cui Telecom ha ancora una presenza di fatto monopolistica, come veniva detto anche prima, sulla telefonia fissa e anche sulla banda larga. Quindi la prima richiesta è quella di avere una tariffazione trasparente, cioè si pagano gli interventi effettivamente realizzati di manutenzione. Il secondo aspetto presente nell'emendamento è questo: si dice la scelta della società che deve fare questa manutenzione la può fare chi ha affittato l'ultimo miglio, l'ultimo pezzo di cavo che entra nelle case per un fornitore di servizi che non sia Telecom. La manutenzione, se io sono un utente Wind, Infostrada, voglio che sia Infostrada a decidere chi fa la manutenzione, ovviamente non prendendo un pinco palla qualsiasi, ma prendendo un'azienda di quelle accreditate, del resto Telecom questi servizi li fa in outsourcing. Ora, che Telecom abbia di che dolersi è fisiologico, se io fossi l'amministratore di Telecom vedo che c'è un pezzo di business che mi dà margini abbastanza facili, è ovvio, faccio di tutto per tutelare questo utile, ma quello che ha fatto il Parlamento è stato semplicemente quello di, a partire da una situazione di fatto che non si può negare, cioè la scarsa concorrenza che ancora c'è nella telefonia fissa e nella banda larga a differenza che nel mobile, intervenire per affrontare un pezzo che non è così irrilevante nell'ambito della concorrenza. Poi discutiamone ancora, ma non si può venir meno, secondo me, a questo principio, si può coinvolgere un po' di più l'autority di quanto è stato fatto, dargli un mese, due mesi di tempo per fare qualche puntualizzazione, però non mi sembra un fuor d'opera come invece da parte del Parlamento, come invece è accusato essere come invece dall'azienda. Grazie Benedetto Lavedova che si ferma con noi fino alla fine. La domanda per Nicola Rossi a questo punto: non è una specie anche questa vicenda di bilancio complessivo della GCOM che si avvia alla fine, tra poche settimane il governo sarà chiamato a disegnare il nuovo presidente in un meccanismo di nomina che è quello più parlamentarizzato di tutte le autorità di settore, perché si vota per lista bloccata separata, e questa volta l'autorità diminuisce significativamente il numero dei componenti, quindi per le vecchie coalizioni in Parlamento, oggi disunite nel sostegno non totalmente omogeneo al governo Monti, sarà più complicato portare a casa un commissario a testa, come capitava prima alle due maggiori articolazioni di entrambe le coalizioni, maggioranza e opposizione. Quindi bisogna vedere qual è il criterio politico che PD, PDL, Terzo Polo alla fine scelgono per l'individuazione dei commissari che diminuiscono della metà, e il problema è che l'indicazione del presidente da parte del governo cade in una particolare temperia in cui la RAI e l'intero sistema della televisivo è di nuovo in fortissima tensione, lo sapete, l'avete visto, Berlusconi che punta i piedi per la difesa del duopolio, commissario, non commissario, potrazione attuale consiglio, la GCOM va rinnovato e il rinnovo con criteri nuovi porrà problemi e tensioni, e c'è una questione di fondo, quella della banda larga, che non riesce a decollare perché è proprio la convergenza tra architetture diverse è quella che ha bloccato per anni la questione. Quindi a seconda di come e di chi arriva alla GCOM si può, speriamo, cambiare marcia. Quest'anno in questa gestione la GCOM insomma non è stata proprio iperattiva, ha avuto una grande sensibilità nei confronti del debito dell'incumbent, cioè di Telecom Italia, e quindi c'è andata piano. Tenete conto che la Commissione Europea solo nel 21 ottobre 2010, ancora recentemente, quindi eccepiva che l'incongruenza dei costi di manutenzione proposti da GCOM esattamente sulla questione di cui stiamo parlando era una questione di cui occuparsi, e però la GCOM poi due mesi dopo, nel dicembre 2010, prende la decisione definitiva, ma ritocca solo marginalmente i valori di questi costi che vengono riconosciuti in tariffa a Telecom Italia. Ecco, la mia domanda per Rossi è: che cosa attendersi, cosa si attende lei da questa vicenda come termometro della nuova GCOM? Riusciamo a sbloccarla questa questione della banda larga oppure no? E cosa ci insegna della liberalizzazione in senso più ampio? Questo scontro che è stato di una durezza che non si vedeva da tempo da parte di una grande impresa privata nei confronti del Parlamento. Lei che pensa, Rossi? Ma dunque, forse la prima cosa da dire, e non è assolutamente una novità, è che mentre l'autorità garante per la concorrenza, l'autorità per l'energia hanno saputo conquistarsi pian piano nel tempo una loro credibilità, una loro autorevolezza differenziata, diciamo non sempre omogenea, ma insomma, invece credo che sia abbastanza osservazione di tutti che la GCOM abbia delle difficoltà serie, e che io collego strettamente proprio all'architettura, alla governance, così come è stata immaginata inizialmente per quell'autorità. Ho l'impressione che finché non si deciderà di riportare... Cioè è troppo politicizzata? Assolutamente, nella maniera più assoluta, diciamo, come dire, lì la non indipendenza è, come posso dire, interiorizzata, e quindi da questo punto di vista l'operare dell'autorità diventa un operare molto difficile. Sarebbe molto saggio quando si potrà e si vorrà, diciamo, mettere mano per riportare a normalità una situazione che visibilmente è una situazione non molto normale. Ora capita che la riduzione del numero dei componenti in questo senso possa essere di aiuto, perché come diceva lei riduce lo spazio per le pratiche che sono state insomma comuni negli anni passati, e quindi probabilmente ci restituirà una GCOM leggermente diversa da quella che abbiamo conosciuto dal punto di vista dell'incisività, dal punto di vista appunto della credibilità e così via. Naturalmente qui il passaggio cruciale è la nomina del Presidente, e qui c'è da augurarsi veramente, diciamo, che la scelta del governo sia una volta tanto, starei per dire per la prima volta, una scelta veramente strettamente indipendente e di altissima autorevolezza, proprio per le questioni che abbiamo davanti, che non riguardano certamente solo Telecom, ma che riguardano appunto anche la RAI, il sistema televisivo e così via. Detto questo, io vorrei tornare, diciamo, al merito della questione, perché, come posso dire, io trovo del tutto comprensibile il ragionamento che ha portato all'emendamento e veramente fondate le considerazioni che hanno spinto a questo atto liberalizzatore, perché che sia un atto liberalizzatore francamente ho delle difficoltà a non pensarlo. C'è un fondamento nelle osservazioni Telecom, io alcune delle osservazioni Telecom onestamente le trovo deboli, l'incostituzionalità dell'emendamento, diciamo onestamente quelle mi sembrano un po' deboli. Ce ne sono altre di natura tecnica che io personalmente non so valutare, che attengono per esempio alla violazione del segreto in alcuni casi, al fatto che in questa maniera si entrerebbe, così dire, nel sistema Telecom. Onestamente non sono in grado di valutare l'attendibilità di queste osservazioni, ma mi domando se il problema non sia facilmente risolubile altrimenti, cioè che cosa interessa ai concorrenti? Ai concorrenti interessa far loro o far fare a ditte a loro vicine la manutenzione? Dubito. Ai concorrenti interessa che la manutenzione venga fatta in tempi molto spediti e a costi di mercato. Non riesco a comprendere come non si possa, e probabilmente qui veramente l'autorità avrebbe dovuto intervenire già da tempo, come non si possa chiedere a Telecom di fare la manutenzione o di farla fare alle ditte che sono convenzionate con Telecom, ma a prezzi di mercato e a tempi di mercato. In questa maniera, diciamo, il problema sarebbe sostanzialmente risolto, perché faremmo riferimento ad un mercato che in realtà non c'è, perché Telecom continuerebbe a fare da sola o per interposta azienda la manutenzione, ma il prezzo praticato sarebbe il prezzo di mercato e i tempi sarebbero i tempi di mercato. Eccoci, tornati in studio, e francamente approfitterei al volo della presenza di Benedetto Della Vedova e di Nicola Rossi per allargare la questione da cui siamo partiti, cioè quella di un intervento di liberalizzazione che interviene su un punto aperto tra un monopolista che resta comunque titolare di una ex monopolista, ma titolare di una fortissima posizione di dominanza sul mercato della telefonia fissa, di fronte a un Parlamento che dice interveniamo almeno per far abbassare questa componente di costo nelle centraline dell'ultimo miglio sull'apertura dei lavori di manutenzione ai concorrenti, succede l'ira di Dio. La Gcom ha fatto un po' orecchie da mercante in questi anni su questioni come queste, l'azienda interviene durissimamente e però lo fa con una tale durezza da rischiare l'effetto boomerang, perché vedremo se poi la norma resta, ma la reazione nelle ore successive a quelle degli interventi di Bernabé era effettivamente di un boomerang, perché tutti quanti hanno detto ma non puoi pretendere di dire al Parlamento che siamo diventati tutti pazzi espropriatori quando invece pensiamo alla concorrenza. Quindi una buona evidenza che non sono solo i tassisti poi quando toccati a reagire, perché almeno i tassisti non hanno detto al Parlamento che era costituzionale che l'Europa sarebbe intervenita a fermarlo. Ma comunque, al di là di questo, andiamo un secondo a vedere come Benedetto Della Vedova e Nicola Rossi la pensano su l'altro grande intervento che è in corso in questi giorni, in queste ore. Quindi la mia domanda secca a Benedetto Della Vedova è: cosa gli piace e cosa invece non gli piace e cambierebbe di quello che ha capito della riforma del mercato del lavoro presentato dal governo? Allora, telegraficamente, per chiudere il punto precedente, nessuno vuole espropriare Telecom, vogliamo una buona norma che favorisca la concorrenza, se c'è da fare qualche correttivo al testo della Camera si può fare, ma sempre conservando il principio di una maggiore concorrenza. Chiusa la parentesi. Al punto, cosa mi piace? Innanzitutto mi piace che un governo, che il governo di Monti e Fornero, abbia stabilito il principio che si può riformare tutto quello che si pensa di dover riformare nell'interesse dell'economia e nell'interesse del Paese, ivi compreso l'articolo 18, che ne dicano la FIOM e la CGIL. Questo secondo me è un passo importante. Io avrei preferito notoriamente la scelta di un modello più semplice, forse anche più innovativo, come quello, diciamo così, modello ichino, però pur attendendo di leggere il testo, ho già letto numerose critiche da una parte e dall'altra, pur attendendo di leggere il testo mi sembra che ci si muova nella direzione voluta, che è quella di ridurre il dualismo del mercato del lavoro, cercando un mercato del lavoro che sia al contempo portatore di maggiore equità e di maggiore efficienza. Questo risultato si può ottenere, mi sembra che ci siamo incamminati nella direzione giusta, cioè riequilibrio delle garanzie e poi anche un riequilibrio in prospettiva delle risorse per il sostegno al reddito dei disoccupati. Vedremo poi il testo esattamente, certo, licenziamento certo. disciplinare, licenziamento economico, ma già fissare il principio che il licenziamento economico si può fare avendo eventualmente come sanzione un indennizzo e non il reintegro, già questo mi sembra un principio importante. Il testo ovviamente deve essere ancora reso noto, sì, sì, sì. E quindi vedremo quello. Tanto è vero che io alle domande di ascoltatori che ieri non capivano, dicendo ma è stato abolito ogni passaggio del giudice per licenziamenti economici, la risposta è no. Dal testo Fornero, da quello che è uscito dal testo Fornero, che però su questo punto era inequivocabile, come del resto confermato dalle critiche che oggi Pietro Chini scrive in prima pagina sul Corriere della Sera, il filtro giudiziale per ogni tipo di licenziamento resta ed è il giudice che valuta, nel caso dei licenziamenti economici, l'indennizzo economico 15-27 mensilità, nel caso in cui cioè ci sia non ci sia la giusta causa. Questo è il punto che resta comunque, tanto è vero che oggi Pietro Chini scrive, io avrei preferito che fosse invece automatico come costo ex ante dato alle imprese e senza passare per il filtro giudiziale, così come dipenderà dalla stesura normativa, visto che probabilmente sarà potrebbe essere una norma delega, vedremo, quella per licenziamenti disciplinari, i paletti messi al giudice perché non finisca comunque a reintegra. I paletti della versione iniziale del testo Fornero sono molto pesanti, cioè fanno intendere che quasi sempre ci si finisce comunque a reintegra, quindi qui bisogna stare molto attenti alle questioni di fondo. Resta il fatto che io preferirei un paese come la Gran Bretagna lo preferirei per questo, per quello che ho trovato in prima pagina su Sole 24 Ore di oggi. Il governo David Cameron scende per l'imposizione dell'impresa dal 24% al 22% per arrivare l'anno prossimo al 20%. Ecco, io temo che lì l'occupazione si faccia innanzitutto così, anche se le regole del mercato del lavoro sono pesanti. Faccio la stessa domanda a Nicola Rossi che ho fatto a Benedetto Della Vedova: cosa gli piace e cosa cambierebbe di quello che ha capito fino a questo momento in cui aspettiamo i testi della riforma al mercato del lavoro? Cosa mi piace? Tre cose mi piacciono. Uno, il fatto che si passi dall'idea della tutela del posto di lavoro all'idea della tutela del lavoratore dal punto di vista dell'architettura degli ammortizzatori sociali. Due, il fatto che si passi dall'idea della reintegra all'idea dell'indennizzo, sia pure con le limitazioni di cui si è detto prima. Tre, il fatto che si abbandoni il percorso della concertazione al ribasso che a cui ci siamo abituati negli ultimi 15 anni. Queste tre cose sono molto positive anche proprio sotto il profilo culturale, per così dire. Cosa non mi piace? Non mi piace il fatto che permanga un margine di incertezza ancora abbastanza significativo, anche se minore di quanto fosse in precedenza, in uscita. La presenza del giudice, diciamo, ovviamente implica un margine di incertezza non piccolo. Non mi piace il fatto che in entrata invece ho la netta sensazione che ci stiamo privando non della precarietà, cosa che tutti potremmo salutare con entusiasmo, ma che ci stiamo privando invece di forme di flessibilità che potrebbero essere particolarmente utili ancora. E non mi riferisco ai casi, diciamo, più eclatanti, nessuno vuole tenere in piedi partite IVA fasulle, ma mi permetto di suggerire che quello che si sta pensando di fare sugli stage è una cosa abbastanza insensata, diciamo, perché gli stage molte volte servono anche in forme che non sono del tutto ovvie, e se ne potrebbe fare una lunga casistica. Ecco, queste cose non mi piacciono. Che cosa mi preoccupa? l'iter parlamentare. Io sono preoccupatissimo che possa ripetersi l'esperienza del decreto liberalizzazione in cui una cosa minimamente incisiva esce completamente addomesticata. E temo che questa sia la preoccupazione che bisogna avere innanzitutto rispetto a un testo sul quale io andrei molto ma molto più avanti, perché le preoccupazioni della vedova Nicola Rossi le condivido praticamente tutti, dalla stretta all'entrata al fatto che sul filtro giudiziario bisogna fare di più. E soprattutto, ragazzi, non dimenticate che la vera leva di moltiplicazione della domanda di lavoro a parte delle imprese, in tutte le forme che hanno funzionato, quelle grandi, importanti, quella svedese, quella del sistema polacco, quella del sistema tedesco soprattutto, ha funzionato non solo perché diminuivano i contributi, diminuivano. La vera lotta al precariato è quella di farli emergere con in tassi di aliquota sul reddito da quei lavori e con contributi per le imprese più basse, non più alte, come si sceglie di fare qua, ma al di là di quello è per l'efficienza del sistema che mette domanda e offerta sul mercato del lavoro. Quella è la cosa che consente di guardare con meno preoccupazione a un sostegno al reddito che dura un anno e non oltre, tranne per gli ultra cinquantenni a 18 mesi, perché quello noi non ce l'abbiamo, perché il sistema pubblico che intermedia domanda e offerta di lavoro match al massimo il 3-4% dei casi. Quindi la preoccupazione poi dei disoccupati ultra quarantenni, ultra cinquantenni, che sono terrorizzati da questa riforma, io quella la capisco, perché o noi sbattiamo per terra un sistema di intermediazione domanda e offerta di lavoro che serve più che altro per caste sindacali e per chi ci sta là dentro, serve a loro, non serve ai disoccupati per trovare posti di lavoro, oppure scopriremo che poi non sarà, non è l'articolo 18 nuovo quello che fa aumentare i posti di lavoro. Spero di sbagliare, ma purtroppo temo che l'esperienza ci dimostri questo. Grazie a Nicola Rossi, grazie a Benedetto Della Vedova. Ora l'informazione stradale, poi la telefonata agli ascoltatori rapida. E come vedete, di Telecom stavamo parlando. Sentiamo Giuseppe da Roma, rapido. Giuseppe, come la pensa? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Salve, io sono un addetto ai lavori, non sono né un sindacalista né un dipendente di Telecom Italia. Prima posso subito dire che il canone di Telecom Italia vale per Telecom Italia oggi almeno 2-3 mila addetti ai lavori. Cioè, questo, con quello che voglio dire è che è giusto che venga liberalizzato, però bisogna tener conto che ci saranno almeno 2-3 mila persone addetti in esubero che entreranno nel mercato del lavoro, dove non potranno essere riassorbiti dagli altri operatori o dal mondo di fornitori di apparati di telecomunicazioni. Poi volevo fare un altro piccolissimo appunto in merito alla nuova legge sul mercato del lavoro. Io posso anche essere d'accordo a 40 anni della riforma che la Fornero ci propone, però non riesco a capire perché questa venga differenziata tra lavoratori del settore privato con quello là della pubblica amministrazione. Statale, bravo, sono completamente d'accordo con lei, Giuseppe. Non volevo interrompere, ma su questo ha ragione, secondo me. Perché bisogna mettere il lavoratore al centro. Se il lavoratore è al centro, il lavoratore in quanto tale, in quanto della sua dignità, non può essere discriminato se presta la sua opera in un settore privato o nella pubblica amministrazione. Sono d'accordo con lei, la fermo Giuseppe, andiamo da Claudio De Livorno. Prego Claudio. Claudio c'è ancora in linea, mi pare di no. Non risponde Stefano da Gorizia. Buongiorno dottor Giannino. Dica. Velocissimo, io sono un dipendente Telecom, mi piacerebbe capire, lavoro da 30 anni in questa azienda e mi piacerebbe capire perché l'Italia ce l'ha con questa società. E da quando Bernabé ha sbattuto la porta negli anni 90, che era già nostro amministratore, che la politica quando decide su di noi, noi ci tocchiamo sempre le parti basse del corpo. No, perché... Stefano, guardi, no. Adesso chi ha indebitato? Chi ha indebitato? Le precedenti proprietà? Aspetti un secondo, questo non può essere una giustificazione per cui chi vuole fare più concorrenza nel settore, i dipendenti di Telecom dicono prendetevela con le precedenti proprietà, perché questo non si ha un diritto in nome delle cattive o buone gestioni precedenti a far pagare al cliente di più dicendo non rompeteci i coglioni e la politica stia zitta e il regolatore non si permette. Queste sono le espressioni di una maniera che io non sto attribuendo a Telecom Italia, sto attribuendo in generale a tutti gli incumbent che devono levarsi di testa. La concorrenza serve per prezzi più bassi e migliore qualità. La concorrenza si fa con i regolatori e la politica, che senza espropriare i diritti di nessuno, però aprono la concorrenza come negli altri paesi avanzati, altrimenti sono chiacchiere e sono solo oligopoli. Appuntamento a domani a tutti.